e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti, bentornati ad una nuova puntata di Cuore Denari. Innanzitutto buon lunedì, buona settimana anche a te Deborah, che vedo bella in forma. Speriamo, guarda, ti devo dire che sono in forma, se non altro perché vedo un briciolo di sole dopo questo weekend uggiosissimo a Milano, che invece non mi aveva proprio messo di grande... Però magari ti sei riposata un pochino, si poltrisce un pochino di più, perché riposarsi un weekend, se ci si riesce a riposare, fa bene, lo sappiamo bene, al fisico, alla mente, ne parleremo anche noi nella seconda parte del programma. Ecco perché vi chiedo sin d'ora di mandarti un messaggio, mandateci un WhatsApp, scriveteci una mail, chiamate il nostro numero verde, ma insomma fatevi sentire per raccontarci come avete riposato questo weekend, se avete riposato bene. Ormai il cambio dell'ora l'abbiamo in qualche modo metabolizzato, si sa che sabato e domenica si vorrebbe dormire un po' di più, non sempre ci si riesce, e quindi raccontatecelo. Io sono riposata sì, ma anche contenta, perché so che tanti nostri amici contribuenti da oggi potranno iniziare a rottamare le loro cartelle esattoriali. Sicuramente torneremo a parlarne nel dettaglio nei prossimi giorni, lo abbiamo già fatto qualche tempo fa qui a Cuore e Denari, ma rifaremo un'altra puntata specifica, perché adesso tutta questa procedura ha qualche dettaglio in più, quindi la metteremo a disposizione dei nostri ascoltatori. Vi suggerisco anche la pagina del Sole 24 Ore oggi dedicata a questo argomento, con tutto il procedimento che va seguito naturalmente per poter cancellare tutte le nostre pendenze fiscali del passato, almeno non tutte, naturalmente qualcuna, qualche però multa arretrata la possiamo... ci sentiamo più leggeri. Esattamente, speriamo. Vi ricordo anche un'altra cosa: oggi qui nella sede del Sole 24 Ore si svolge il 18° annual delle assicurazioni, è un evento molto importante, c'è tutta l'industria assicurativa qui raccolta in via Monterosa, un punto della situazione sul mondo assicurativo. Vi segnalo sempre sul Sole di oggi un'intervista a Maria Bianca Farina, presidente dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicurative italiane, che sottolinea l'importanza di un progetto che vede il supporto delle compagnie per rispondere ad eventi come quelli che hanno colpito il centro Italia in questi mesi e poter gestire anche sul fronte assicurativo il rischio terremoto, un tema sicuramente attuale che non può non interrogare questo settore, e anche su questo sicuramente ci torneremo più avanti quando vedremo sul mercato un po' più polizze contro il sisma, magari conveniente per tutti i possibili assicurati. Detto questo, partiamo subito con la giornata di borsa, che è veramente densa di notizie. Tante notizie che commentiamo con l'ospite dei mercati del lunedì, ormai possiamo inaugurare anche una nuova rubrica, Nicoletta. Oggi tocca a Pietro Calì, Copernico SIM, società di consulenza finanziaria indipendente. Dottor Calì, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Chissà se lei che porta fortuna ai mercati o quale altro motivo c'è dietro a questo rialzo molto vistoso di questo lunedì mattina. Allora, lo riepilogo: Parigi più 1,84, Francoforte più 1,72, Londra più 1,50, Milano più 2,33%. Allora, domani ci sono le elezioni presidenziali americane, la signora Clinton è fuori da questa inchiesta che era stata riaperta dall'FBI sul famoso email gate. Detto questo, a giudicare da questa notizia, dalla reazione di borsa di questa mattina, Calì, mi sembra abbastanza chiaro da che parte stia il mercato. Sì, è stato un bellissimo risveglio anche per noi operatori, diciamo così. Appunto, l'FBI ha chiuso l'indagine su Clinton, quindi ovviamente il vantaggio e le possibilità che venga eletta la Clinton, e quindi un rasserenamento anche dei mercati, in quanto Clinton sappiamo che è molto più accomodante di Trump anche per quanto riguarda le politiche monetarie, sicuramente una bellissima notizia. È una settimana di fuoco sui mercati, anche perché siamo di fronte ad alcune trimestrali fondamentali. Oggi abbiamo visto il debutto anche di Italgas in borsa italiana, oltre che vedremo la trimestrale di Ferrari. Appunto, è un clima secondo me rasserenato, la giornata di fuoco sarà soprattutto mercoledì, quando vedremo appunto gli esiti delle elezioni americane. Detto ciò, io rimango comunque molto molto cauto, sappiamo che il mercato italiano da qua a fine dell'anno, anche causa referendum, potrebbe essere molto molto volatile, quindi estrema prudenza, nonostante questa mattina ci siamo svegliati con una grande positività. Allora, a proposito di questo debutto che lei ha segnalato questa mattina, quello di Italgas, intanto devo dire che ho fatto un po' di fatica a rintracciare il titolo sulla piattaforma che noi utilizziamo per raccontare ai nostri ascoltatori i mercati, perché la denominazione in borsa è di IT Way. Mi sbaglio? Sì, no, giustissimo. Ecco. E non abbiamo ancora però la variazione percentuale, mi pare, in questo momento. Sì, il titolo è in fase di assestamento, nel senso che in questa fase ovviamente, come sappiamo, è uno scorporo da Snam, quindi è un ramo d'azienda di Snam, Rete Gas, che è stato scorporato. Italgas è una vecchia storia della borsa italiana, è stata delistata circa 13 anni fa. Ecco, dal punto di vista proprio dei numeri, Italgas dovrebbe essere quotata intorno ai 4 miliardi come capitalizzazione, mentre le prospettive rimangono come fatturato, se guardiamo proprio l'azienda, a circa 1 miliardo o poco più. Detto ciò, io in casi di emissione come questa rimango ovviamente molto cauto, perché bisogna aspettare un attimo che il prezzo si assesti. Non sono però molto sicura delle notizie in realtà che ho dato relativamente alla denominazione, Calì, poi magari ce lo studiamo questo aspetto. Sì. Allora, sulla denominazione, io cercando proprio questa mattina, oggi stesso appunto, la denominazione, secondo me c'è ancora poca chiarezza, nel senso che non è ancora stato registrato totalmente nei portali, perché io cercavo appunto il prezzo, ho visto stamattina in apertura, ma infatti era intorno non è ai 4 euro qualcosa, però non vorrei dire infatti, infatti quello che dico io è i T-Way della precedente operazione che abbiamo raccontato altre volte, che non ha nulla a che fare appunto con le società del gas, ma le reti di trasmissione, forse Rai eccetera, se non mi ricordo male. Infatti il prezzo è 1,70, quindi in realtà non ho dato un'informazione corretta, ma adesso sto monitorando questa piattaforma, lo sto facendo live con i nostri ascoltatori, esatto, quindi abbiate pazienza. Detto questo, l'effetto è abbastanza evidente su Snam Rete Gas, che invece perde il 16%. Dall'altra parte abbiamo invece questo recupero sull'otto volante di Monte dei Paschi, più 13%, anche qua un altro titolo ancora molto caldo. Sì, Calì. Un titolo caldissimo, pare dalle indiscrezioni che il titolo oggi sta salendo proprio perché pare ci sia la candidatura come presidente di Falciai, che è un vecchio conoscente, un vecchio azionista del titolo, che potrebbe appunto diventare presidente, si dice presidente ponte, cioè per una certa fase, finché Morelli, l'amministratore delegato, non trovi un investitore, un anchor investor viene definito, che possa traghettare quantomeno Monte dei Paschi fuori dalla crisi. Devo dire che l'iniziativa di Passera di qualche settimana fa era piaciuta molto al mercato, quindi un altro investitore pronto, diciamo, a salvare Monte dei Paschi era piaciuta. Anche qua questo è un titolo davvero da trading puro, quindi molto molto rischioso. E per chi ha il titolo in portafoglio io attenderei, soprattutto in questa fase. Certo. Allora, naturalmente questa prestazione di Monte dei Paschi, poi il fatto che i titoli erano stati molto penalizzati nelle ultime sedute, sono queste le condizioni appunto che stanno facendo crescere tutti i titoli del settore bancario stamattina a Piazza Affari. In negativo abbiamo solo Snam, appunto per le ragioni che abbiamo raccontato. Altri temi caldi della settimana: venerdì c'è un tema molto importante, perché arriva il nuovo giudizio di Standard & Poor's sul debito italiano. Calì. Esatto, venerdì, giornata fondamentale, Standard & Poor's appunto darà il nuovo rating all'Italia. Io immagino rimanga abbastanza stabile, siamo su un tripla B meno per quanto riguarda il nostro paese. Standard & Poor's è stato più severo con l'Italia rispetto ad esempio alla Spagna, che ha un rating superiore. Ecco, diciamo che con venerdì avremo il quadro un po' più chiaro, sia dal punto di vista appunto delle elezioni americane, sia dal punto di vista dell'Italia. Italia che dovrà affrontare il giorno prima anche un'emissione di bot, quindi anche il mercato obbligazionario ha di fronte a sé un appuntamento molto molto importante. Esatto, tra l'altro le monitoriamo con grande attenzione queste aste bot, per esempio proprio per questa scadenza che lei ha indicato continuano a registrare dei rendimenti negativi. Secondo lei qual è la ragionevole previsione anche per questa emissione? Continueremo a testare il territorio negativo con altri record a ribasso? Io penso di sì, penso che nell'ultima emissione il rendimento negativo è stato di meno 0,2%, secondo me non andremo oltre 1,03%, anche perché se guardiamo l'emissione precedente a quella di ottobre, appunto il rendimento era di meno 0,1%, quindi diciamo che c'è un decremento progressivo. C'è da aggiungere una cosa importante però, perché ultimamente anche il mercato obbligazionario è sotto scacco dell'emotività delle persone, degli investitori, quindi anche il mercato obbligazionario ormai sta diventando più volatile, ha aumentato la sua volatilità e lo dimostra anche il fatto che gli spread sono sempre più alti. Infatti siamo intorno ai 160 punti per quello che riguarda il differenziale fra Italia e Germania, ed è un livello più alto di quello che c'è fra la Germania e la Spagna. Grazie a Pietro Calì per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie. Intanto a voi, buona settimana. Grazie. Noi andiamo in pausa, Nicoletta, per poi tornare subito con invece la rassegna stampa di cuore. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari. E ripartiamo con la rassegna stampa di cuore, ma Deborah, voglio leggerti anche un messaggio di Alberto che ci ringrazia per questo aggiornamento sui mercati e ci scrive: sono sempre fonti di preoccupazione, ci riservano sempre delle sorprese, quindi ad Alberto diciamo continui a seguirci, noi apriremo sempre con un aggiornamento sui mercati, ma non si preoccupi troppo, perché preoccuparsi troppo non fa bene, né ai denari né al cuore, non è un modo di dire, perché a proposito proprio per la rassegna stampa di cuore vi propongo uno studio che è stato pubblicato sul British Medical Journal Open, che mostra un rischio di infarto quasi doppio per coloro che manifestano ansia sul fronte della salute, che vedono in qualsivoglia sintomo una possibile malattia, ovvero i cosiddetti sani preoccupati, persone che pur non essendo dei veri e propri ipocondriaci vivono la propria salute con molta ansia. Anche dopo aver considerato altri fattori che possono contribuire a questo aumento di rischio, gli esperti concludono che emerge che i sani preoccupati hanno una probabilità quasi doppia di sviluppare una malattia cardiaca e di morire per cause cardiovascolari rispetto a chi non vive la salute con ansia. Quindi... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. E sono felice di salutare il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, è sempre un piacere essere in vostra compagnia. Cuor contento il cielo aiuta, cuor preoccupato rischia di essere infartuato. La rima è tirata, ma questo è un po' il senso di questa ricerca con cui abbiamo aperto la rassegna stampa di oggi. È vero, dunque lo studio è uno studio bello, va ricordato sull'ottima rivista, va ricordato che è eseguito da colleghi psichiatri nordici, norvegesi, quindi ovviamente con una particolare predisposizione all'osservare, a controllare ciò che riguarda l'ansia. È bella la definizione di sani ma preoccupati, perché è una definizione che risale un po' agli ultimi anni. La medicina ha fatto passi da giganti in questi anni. L'altro giorno ricordavo che quando facevo il liceo e i primi anni di università, la glicemia a digiuno, la soglia giusta era 160, la pressione arteriosa era 160, il colesterolo 280, numeri che adesso ci fanno rabbrividire, perché negli anni gli studi hanno dimostrato che si poteva andare in basso. Però sì, per la pressione basso, addirittura si diceva 100 più il numero degli anni, quindi un ottantenne poteva avere 180 di pressione. Infatti. E quindi poi piano piano invece le linee guida dell'ipertensione sono scese fino addirittura ad arrivare alla normale alta o alla ottimale. Quindi queste persone le abbiamo un pochino anche spostate noi ad essere attenti, ma alle volte essere attenti genera anche preoccupazione. Giustamente lei ha detto che non ha niente a che vedere con gli ipocondriaci. Gli ipocondriaci hanno percentuali di rischio di infarto molto più alte di quelle che lei ha citato sul lavoro, perché quelli sono convinti di essere malati. Queste sono tutte le persone come noi che un attimo aspetto 201 o 129 che non mi venga qualcosa. E questo è il problema dei sani ma preoccupati. Ma volevo anche ricordare che non è una grande novità che lo stress, fra virgolette, perché in fondo l'ansia genera stress o viceversa, certo, sia un fattore di rischio. Noi lo sappiamo scientificamente da una dozzina d'anni, dal 2004, quando è uscito uno studio molto importante sull'Lancet, che ha dimostrato che siccome gli effetti dei fattori di rischio non sono additivi, ma sono moltiplicativi, quindi se uno ha due volte il rischio se fuma, se ha due volte e mezzo se ha il diabete, non è che due e mezzo più due e mezzo fa cinque, in realtà è moltiplicativo. Ai fattori di rischio soliti, quindi fumo, diabete, ipertensione, colesterolo, se uno andava ad aggiungere lo stress e i fattori psicogeni si arrivava addirittura a 180 volte il rischio. Quindi indubbiamente l'ansia e lo stress sono fattori di rischio per il nostro cuore, indubbiamente. Allora, professor Manfredini, intanto ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che sulle pagine di Cuore Denari abbiamo una respirazione, una guida alla meditazione proprio per tenere basso un po' il livello dello stress, di Daniele Belloni. È una meditazione portateco, 3 minuti al giorno da dedicarsi per tenere un po' sotto controllo l'ansia. In realtà però, professor Manfredini, il lunedì qualche preoccupazione potrebbe darcela. È un giorno un po' a rischio per il nostro cuore, e lo dico non per seminare ansia tra i nostri ascoltatori, ma diciamo che anche il cuore, come noi, ha i suoi giorni sì e i suoi giorni no, e il lunedì è uno di questi. Voi avete fatto degli studi straordinari su questo aspetto. Certo, già qualche anno fa, sempre appunto il British Medical Journal, una grande testata, è uscita con un articolo che si chiamava "Non mi piace il lunedì". I Don't Like Mondays, ed effettivamente non piace a tanti, era rivolto alla patologie cardiovascolari. Sì. Noi in questi ultimi anni, così, osservando dei dati chiaramente di grandi database, per esempio di regioni, nazioni, eccetera, si vede che lunedì effettivamente è contraddistinto da una percentuale maggiore di infarti del miocardio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in persone predisposte, cioè in persone che comunque erano a rischio di avere l'infarto, l'extra stress procurato da lunedì probabilmente è servito come fattore stimolante. Certo. E questo vale anche per esempio per la famosa sindrome del cuore spezzato, quella delle donne in postmenopausa che hanno una cardiomiopatia tacotsubo da cui si guarisce assolutamente benigna, ma che si presenta come fosse un infarto. Il lunedì è sicuramente un giorno stressogeno. Sentivo Deborah prima che parlava ovviamente della borsa, io mi sono rassicurato perché vuol dire che non avendo tanti soldi non si sa dove metterli, quindi vede, si sta abbastanza tranquilli, però già mi avevano chiamato dall'Australia tempo fa perché una tesi di un economista aveva dimostrato che lunedì anche per le borse era un giorno abbastanza rischio di imprevisti importanti, quasi negativo. Li ho rassicurati perché siccome per valutare un rischio bisogna che il fenomeno sia continuo e la borsa non è aperta 7 su 7, lunedì chiaramente ha molti bias per prestare il fatto che possa essere negativa o positiva. Ecco, quindi adesso, quello che diceva prima Deborah, oggi per esempio andiamo bene. Adesso ti ha colpito, il professor Manfredini con questa sono analisi. Sono lusingata dai suoi molteplici riferimenti al mio collegamento di borsa. Vedi? A dir poco, esatto. Magari poteva anche fare un commento sulla mia lucidità sull'individuare il titolo Italgas, ma questo è un'altra pagina e ne parleremo un altro momento. Intanto molti dei nostri ascoltatori hanno risposto anche al nostro invito. Davvero? Abbiamo chiesto che come avete passato questo weekend, avete riposato bene. Anche riposare bene nel weekend aiuta a ridurre un po' quell'ansia che abbiamo visto ha un effetto negativo sulla salute del cuore, ma non solo, e ci stanno raccontando belle passeggiate, poi letture sul divano senza sensi di colpa, oppure un'ascoltatrice che ha festeggiato il suo compleanno, quindi ha lavorato tanto con i suoi parenti, però stanca ma felice. Professore, prima di salutarci, se come lei ha confermato, preoccuparci senza motivo non solo è inutile ma può risultare dannoso, sì, è altrettanto importante non cadere nel rischio opposto, cioè trascurare dei segnali che potrebbero essere invece importanti. Vogliamo ricordarli? Certo, bisogna ricordare dei segni che possono essere così in 30 indicativi. Secondi prima del nostro GR. Esatto, dolore al torace, dolore al giugulo, il dolore irradiato all'arto, senso di peso, di oppressione, ricordando che questo vale per i maschi, attenzione, per le donne i sintomi sono diversi, la medicina del genere ci spiega che anche un dolore alla schiena, al collo, una nausea forte, un sudore freddo, magari possono indirizzare a chiedere consiglio al medico. Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, un buon lunedì, noi andiamo al nostro GR e torniamo subito dopo insieme, voilà! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Tutti a Harvard inventano qualche cosa. I laureandi di Harvard pensano che inventare un lavoro sia meglio che trovare un lavoro. Quindi suggerisco ancora che voi due vi inventiate un nuovo progetto. Sì. Tratto dal film? Vediamo chi lo sa. Ma non posso dirlo. No, dai, dillo no, che no, vinci. No, ti no, regalo no. Un libro di cuore denari, dai. Vai tu. The Social Network del 2010, diretto da David Fincher, incentrato naturalmente sulla storia dei fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che ha creato. Allora, l'ultima volta che io personalmente qui a Radio 24 ho parlato di startup è stata proprio la scorsa estate, in occasione della visita di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook in Italia. Tu non c'eri, quella puntata me la sono dovuta fare da sola, ma era una puntata della trasmissione estiva. Ma cos'è quest'estate? Ecco, te la ricordi perché non c'ero allora, io. Esatto, e quindi te la devo riepilogare, ti devo rifare il riepilogo di quello. Guarda, che ho detto. Sono così, io strego. Entro nel cuore. Mark Zuckerberg ha fatto tante cose in quella circostanza, è andato anche alla LUISS di Roma, ha incontrato le startup incubate proprio all'università appunto romana e ha anche detto: viene voglia di creare un'impresa qui in Italia perché voi avete un tessuto, una cultura imprenditoriale davvero molto importante, insomma ce lo ha riconosciuto. Allora, visto che il tema del lavoro e delle opportunità professionali ci stanno sempre a cuore, vorremmo tornare oggi sul tema delle startup in primo luogo perché la legge di bilancio 2017 prevede la proroga e l'ampliamento delle agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative. E questo è un aspetto. Noi oggi vogliamo anche capire, sono davvero lo scenario alternativo all'occupazione giovanile, visto che è sempre più difficile assicurarsi un posto di lavoro a vita per i giovani d'oggi? L'unico modo per lavorare è inventarsi un'attività d'impresa o il mondo delle startup non ha nulla a che fare con il mondo del lavoro tradizionale, parliamo invece di veri imprenditori creativi, di forte spirito di iniziativa che non pensano affatto all'iniziativa d'impresa come alternativa al contratto a tempo indeterminato. Ne parliamo con chi sa molto di questo mondo, Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore, Nova 24, grande esperto di tecnologie e cura anche le pagine dedicate proprio al mondo delle start-up, per cui... Sono la persona giusta al posto giusto. Esatto, il più autorevole che c'è in assoluto. Io mi scuso perché ho questa voce da porno divo, però diciamo che bella, una bella attività di impresa nuova da quella. Da Topo Gigio porno divo. Sì, esatto, certo. Una cosa del genere. Bello. Allora, fatemi essere seria ancora per qualche minuto, per favore. Però. Prima di iniziare, porno divo. No, non lo dire forte perché sai. Adesso tutti vanno a cercare la tua fotografia, certo. Su Google stanno tanto, googlando tutti Luca Tremolada per vedere sto portento. Esatto, degli anni 30 praticamente in cui sono tutti i capelli, cioè sono ancora scuro. Molto promettente per quella molto, carriera lì. Sì, sì, tutto finito, tutto. No, finito. Alle amiche allora, dico che ne vale ancora la mi fate la parlare pena. Di startup la oppure spesa o la pena, se volete non me so. Ne vado, Allora. Luca. Che torno qua tutti i giorni. Benissimo. Adesso Carmelo, puoi spegnere i microfoni a questi due? Allora, volevo anche segnalare ai nostri ascoltatori, torniamo al lavoro, che sono in corso anche i preparativi per l'ottava edizione del Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile che si tiene questo giovedì 10 novembre qui al Sole 24 Ore. È una giornata che è stata definita ad alto contenuto di innovazione, una finestra aperta sul modello di business del futuro attraverso il racconto di esperienze pionieristiche di chi lo vive già, ma ci saranno anche appunto delle esperienze già consolidate con cui poter fare un confronto. Allora, Cuore Denari vi vuole dare una possibilità speciale oggi per partecipare a questa iniziativa. Per cui adesso vi faccio una domanda che non è un quizzone ma è la richiesta di un vostro pensiero. Per tutti coloro che ci risponderanno, li contatteremo, sono disponibili per le 10 risposte più stimolanti, brillanti, interessanti a insindacabile giudizio della donna di cuore e della donna di denari, questi 10 ascoltatori appunto si aggiudicheranno un ingresso al Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile. Per cui qua un segnale molto concreto di interesse per questo mondo che si muove con grande fermento. Allora, la domanda è questa: qual è il vostro sogno nel cassetto? Quale sarebbe la vostra startup ideale? Non è niente di difficile, magari qualcuno di voi sta già predisponendo qualche piccolo business plan per lanciarsi in un settore. Qual è l'idea che state accarezzando da tempo? Segnalatecelo via SMS o WhatsApp al 349-238-6666, per cui le 10 risposte più stimolanti e brillanti a nostro insindacabile giudizio si aggiudicheranno un ingresso al Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile. Ho detto tutto? Mi sembra di sì. Posso cominciare a chiacchierare con Luca adesso, che ha scaldato ancora di più le corde vocali, quindi sempre più porno vivo questa mattina. Tra di noi, Luca, il mondo delle startup, dicevamo, tu lo conosci molto bene, è un mondo, mi ricordo molto bene che mi raccontavi quest'estate, che vive di un ricambio continuo, perché ci sono quelle che sopravvivono annaspando, quelle che non combinano granché, tutte quelle che invece nascono continuamente, no? Una fotografia però precisa del fenomeno startup in Italia, sì, c'è qualche istituzione che naturalmente la fa, la scatta, però è difficile farla. Allora, adesso è sempre meno difficile, nel senso che si stanno occupando di startup un po' tutti. Il Ministero dello Sviluppo ogni 3 mesi esce con un bollettino, tra l'altro hanno fatto tutto un sito carino, se lo vedi, con tutti i numeri. Sono bravi, bravissimi, ci credono molto. Poi sai, parlare di startup anche, fa bene anche la politica, nel senso che poi sono tutti giovani, vanno in giro con la maglietta, è molto marketing. Un po' millennials. Ma sì, va benissimo, per cui cioè, tutti i ministeri sono molto interessati a fare quelli che tifano startup. Poi oltre al ministero c'è Infocam. Io do questa informazione perché in realtà è divertente andare a leggere di startup, è qualcosa che fa bene al cervello, nel senso che non dobbiamo aspettarci grandi numeri occupazionali e grandi... quindi vedi che è anche un tema di cuore, Nicoletta. Ma certo, ma sì, cioè, nel ma senso, certo, una la sviluppa... mattina si sveglia e dice: ma sai, voglio inventarmi un social network che connette le persone, metti un compagno di classe. Ah no, cavolo, l'hanno già fatto. E invece va avanti, no? Però insomma, il tema è questo. Vabbè, fatemi dire, Infocamere, loro tengono il censimento delle startup, per cui sono più di 6.000, loro ogni 2 mesi ti dicono, ti aggiornano i numeri, anche lì grafiche bellissime andate, e poi ci sono tantissimi siti che insomma tracciano l'attività, per cui informarsi è abbastanza facile, sono molto di moda, continuano ad essere di moda, parliamo di un mondo piccolissimo. Lo segnala anche un ascoltatore, ti dico la verità, anzi se proprio vuoi che te la dica tutta, questo ascoltatore che vorrebbe intervenire in diretta ci ha chiamato all'800240024, dice: in Italia sono ancora un fenomeno minoritario, non così diffuse come scrive il Sole 24 Ore, mi pare che tu invece sia assolutamente allineato. Noi siamo cattivissimi, cioè se leggete le 2 pagine lì ogni volta mi dicono: ma questo titolo è ancora negativo. Poi non è che, attenzione, non bisogna pomparle, per cui che cosa significa? Noi ne parliamo per 2 ragioni sul Sole 24 Ore. Tra l'altro fatemi ricordare che la pagina esce il venerdì e il martedì. Innanzitutto per spiegare che ci sono dei numeri collegati alle startup. L'errore che molto spesso si fa è quello di parlare solo delle idee, che è fantastico. Mi invento una startup sul mondo delle assicurazioni. Sì, benissimo, ma quanti soldi fai? Cioè il nostro mestiere qui è proprio quello di dire: ok, ti reggi in piedi, sai camminare, hai un business plan, riesci ad assumere qualcuno? Sì, no. Bene, se sì, funzioni, se no, no. La cosa che abbiamo introdotto su online, lo dico all'ascoltatore, noi parliamo solo di startup che ricevono round di investimenti, cioè non facciamo i maghetti, per cui arrivi da me e mi dici: ho un'idea meravigliosa, cambierà il mondo, ho inventato la ruota. No, aspetta, qualcuno ti ha dato i soldi? Ricevere il round di investimenti significa quello, avere dei finanziatori che ti consentano poi di far decollare, esatto, l'idea di impresa. Ma non è solo venture capital, l'altro modo per raccogliere i soldi da parte dei ragazzi è quello di partecipare ai bandi di concorso, alle competizioni, ce ne sono tantissime, sono più di una 50, per cui sai, tutte le grandi aziende, siccome vogliono innovare, che cosa fanno? Organizzano, dovremmo farlo anche qui al Sole, tra l'altro, secondo me, organizzano dei momenti in cui li chiamano, loro fanno un loro speech, si presentano e metti che trovano qualche ragazzo interessante o qualche idea buona, se la comprano. Certo. Ma tra l'altro c'è anche un altro grande, secondo me, equivoco e pregiudizio, se vogliamo, rispetto al mondo delle startup. Intendiamo generalmente nella nostra testa con una startup tutto ciò che è... tecnologico esclusivamente, no Luca? Tutto quello che è il mondo delle app, delle application, delle applicazioni sul nostro smartphone. In realtà anche nei settori largamente tradizionali si possono fondare delle startup di impresa. Forse è questo un po' il mondo da esplorare un po' di più, anche come idea da dare magari ai nostri ascoltatori. Nella manifattura si può fare la startup? 4.0, industria 4.0, sensori. Allora, sì, sì e no. La risposta giusta è oggi il 60-70% delle startup, hai visto che essere mi viene fuori, delle perché la prendi da me. Mamma mia, infatti, facciamo dei fischi mostruosi. Sassari. Ecco. Allora, il 60-70% delle startup sono nel mondo dell'ICT, dell'information technology, però attenzione, c'è il medicale, ci sono tutte le startup sociali. È chiaro che c'è un po' di tecnologia dentro, certo. Cioè se mi apri una pizzeria non è una startup innovativa, però è poca, non bisogna essere un informatico per fare startup, anzi forse proprio quelle che danno un po' per scontato le tecnologie magari tirano fuori delle idee migliori. Sì, allora, io ho una richiesta. Dimmi. Di un autotrasportatore ci cosa? Manda un, via WhatsApp un messaggio. Una startup che dia un servizio a noi titolari da aziende che non si trova, che riesca a controllare anagrafica del personale, scadenza, documenti personali, ma soprattutto che controlli la flotta dalla semplice revisione alla manutenzione. Per chi come me ha mezzi sparsi qua e là, non è facile seguire tutto e tenersi aggiornati. Certo. Quindi insomma un controllo dall'alto attraverso sistemi GPS che comunque già esistono, esatto. No Luca? Non dovrebbe essere niente di particolarmente difficile. Lo faccio io. Quanto mi danno? Lo faccio io. Lo no, faccio è fatto questa cosa no. Qui. Perché adesso dentro, contattiamo l'ascoltatore, se vuole venire al forum di giovedì, a lui possiamo sicuramente dare al nostro insindacabile giudizio il biglietto d'ingresso. Anche Luca. Perché la parte interessante è appunto una persona che dice io voglio fare questa cosa. Per cui voglio qualcuno che mi risolva il problema. Ci sono gruppi di ragazzi usciti dalle università che alzano la mano e dico, ma io sono capace. Ma dal punto di vista digitale ci possono mettere anche veramente una giornata a studiare un sistema di questo tipo. Detto questo, intanto, anche se il fisco aiuta un po', naturalmente non è che proprio lo disdegniamo, allora sentiamo un po' cosa c'è in cantiere nella legge di bilancio. Vento a favore per le start-up innovative. Questo, almeno stando a quanto riporta il disegno di legge di bilancio 2017, che andrebbe a prorogare e ampliare le agevolazioni fiscali già previste per chi investe in questo tipo di società. Una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita, rispetto all'attuale 19%, che verrebbe portata a regime, elevando al tempo stesso da 500.000 a 1 milione di euro il tetto massimo della somma su cui calcolarla. E salirebbe dal 20 al 30% la possibilità di deduzione prevista per le società e i soggetti IRES, con un tetto che viene confermato agli attuali 1,8 milioni di euro. Tutto questo però a patto che l'investimento in oggetto, e quindi la relativa partecipazione nella società, venga detenuto per almeno 3 anni, in luogo degli attuali 2. Tra le novità, anche la possibilità di trasferire a propri soci, che siano società quotate, le perdite fiscali conseguite da startup nei primi 3 periodi di imposta dalla loro fondazione. In attesa dei prossimi passaggi parlamentari ed europei, non resta che augurare una lunga vita a queste giovani società, nella speranza si confermino questi incentivi, pensati per consentirne lo sviluppo e incoraggiarne il finanziamento. Intanto abbiamo molti candidati a partecipare al forum dell'imprenditoria giovanile e femminile che si svolge qui al Sole 24 Ore giovedì. Allora il mondo startup, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di inviarci così la loro idea, il sogno nel cassetto, la vostra startup, e qua più che sogni sono arrivate già delle idee concrete partite, per cui direi che tutti gli ascoltatori che possono partecipare a questo evento di giovedì. Il nostro progetto, ci racconta un ascoltatore, è la vendita e personalizzazione di orologi con foto, disegni, loghi e dediche, orologi per grandi e piccini. Il nostro sito, c'è già un sito, io lo dico perché a noi piace che si conoscano queste idee, www.freewatch.it. Non sappiamo bene come lanciare il prodotto, che al momento ha dei riscontri positivi. Allora, per lei il biglietto per entrare a questo evento di giovedì c'è, io già giudico positivamente questa idea. Luca, a te che sembra? Molta tradizione, perché insomma la personalizzazione dell'orologio non è che... No, io non ho, ma non posseggo orologi da quello che mi hanno regalato alla comunione. Io Nicoletta lo stesso, esatto, che sta lì chiuso nel cassetto. Esatto. Però, esatto, chi ha l'orologio è di solito molto ricco e quindi magari ne cambia anche tanti, per cui c'è una fascia di alta gamma. Adesso che chi ha l'orologio è molto ricco. Beh, allora, infatti Carmelo Lauricella ne ha 2, sì, uno per polso. Vediamo, no, me ne ha fatto vedere solo uno, rosso. Sì, ma secondo me è bellissimo. Cioè, infatti quelli che c'hanno, gli uomini che hanno l'orologio, cioè, nascondono delle voragini, nel senso, perché possono, no, perché l'orologio è il gioiello dell'uomo, no? Mi insegnate voi, per cui l'uomo magari è l'unico gioiello, quindi insomma questa persona deve probabilmente trovare dei finanziatori. Un altro ascoltatore, Eleonora, Firenze, 21 anni. Eleonora, venga giovedì a fare una visita a Milano. Il mio business plan è smaltire il polistirolo e i suoi derivati. Lo vedo spesso svolazzare troppo in giro, ma lo Stato non aiuta questi buoni progetti. Ci sarebbero possibilità di assunzione e molto lavoro. Beh, tutto il tema che riguarda un po'... Non lo so, il miglioramento delle condizioni ambientali potrebbe essere un settore con grandi prospettive di sviluppo. Si chiama clean tech, si chiama tecnicamente quel settore lì. E in Italia è piccolo, all'estero è molto importante, molto grosso. È vero che c'è poca attenzione. Vorrei invitare Cristina. Energetico, sì. L'hai letta? Dici? Di Cristina, il suo sogno nel cassetto è creare un'agenzia di servizi che mi permetta di fare rete con tutte le splendide donne professioniste in ambiti diversi che vogliono rimettersi in gioco dopo uno stop per maternità o problemi familiari. Probabilmente forse anche questo c'è già in circolazione, però sì, ecco, il tema è che lo conosciamo, no, Luca, solo noi, non so per quale motivo, forse perché professionalmente si candidano da noi e ci chiedono visibilità attraverso la radio, poi chi ha bisogno di questi servizi non riesce mai a raggiungerli, ma perché? Quindi questo è il grosso tema anche, che questo su cui le startup devono lavorare. E certo, è un tema che è a cavallo tra il marketing e la comunicazione, però è un tema, hai ragione, è un tema assolutamente strategico. Ma tutto il mondo di back to work, mi verrebbe da dire, di rientro dal lavoro delle mamme. Salutiamo il nostro amico anche Alberto Bassi del back to work qui del Sole 24 esatto. Ore. Esatto, cioè è estremamente interessante, sulle mamme c'è tantissimo ed è divertentissimo, perché poi su WhatsApp fanno delle cose straordinarie, per cui lì c'è business, sì, perché una mamma che è in grande difficoltà o per rientrare o per la gestione ha bisogno di un aiuto. Internet è un collante meraviglioso, perché non so, però solo 20 anni fa l'idea, mi sveglio, ho il bambino che piange o voglio sapere che cosa fare e mando un WhatsApp, una mamma sveglia la trovo. Certo. Senti, un'altra curiosità, Luca, legata all'attualità, le startup nel settore del food, del cibo, perché ci ha molto colpito quello che è successo a Foodora, no? Il food delivery, il trasporto del cibo, che sembra essere l'idea del momento in tema di startup interessanti, un mondo però messo in crisi adesso dalla questione dei contratti applicati ai dipendenti. È un problema comunque anche che si riferisce a startup in altri settori? Allora, innanzitutto chiamiamola con i nomi. Questa è gig economy, cioè l'economia dei lavoretti. Cioè, quello che è successo è che esiste una, poi è stata chiamata sharing economy, ma di sharing ha veramente poco. Sono quello che succedeva un tempo quando veniva qualcuno a dirti: senti, sei uno studente, vieni da noi a fare due cose, ti do 7 euro. Una cosa che fa accapponare la pelle, però esistono i lavoretti, sono sempre esistiti. Io guardo adesso tutte le volte che vedo in giro la sera in bicicletta questi ragazzi che circolano con la pizza da trasportare in 2 nanosecondi da una parte all'altra di Milano, ormai ti si stringe infatti un po' il cuore. La battaglia sindacale, perché quello per cui, perché noi parliamo di food delivery, perché in questo momento si sta discutendo, ci sono delle rimostranze sindacali, perché essere pagati a consegno un paio di euro è un po' poco, anche se devi attraversare Milano, per cui si sta ragionando su essere pagati a livello orario. Cioè, è un vecchio tema questo che rientra, e non bisogna scambiare l'innovazione tecnologica con invece un'economia solida. Questa è l'economia dei lavoretti. Certo. Allora, intanto Marco ci manda il suo numero di telefono, perché ha la soluzione per il trasportatore di cui prima, e adesso faremo questo match, chissà che non terremo a battesimo un'altra grande iniziativa di impresa pronta a decollare. Andrea da Desio molto brutalmente chiede: buongiorno, sono collegato da poco, voglio sapere come creare una startup. Allora, spero che intanto abbia qualche vocazione, qualche capacità, naturalmente, che non parta proprio da zero. Però io ho trovato su un sito, Luca, un elenco molto interessante delle 10 domande più importanti da farsi prima di creare la startup. Perché qui bisognerebbe appunto leggere con grande attenzione questa lista di raccomandazioni. Il tema è capire intanto se hai un'idea, se il business che intendi sviluppare corrisponde appunto ad un bisogno che c'è sul mercato, perché credo che questo, a prescindere poi dalle disponibilità economiche, dalle capacità creative, è capire se c'è bisogno. No, certo. Per me il tema centrale è questo. È anche la parte, se vuoi, che attiva di più i neuroni, nel senso che possiamo avere delle idee straordinarie, però è chiaro che vendere dei ghiaccioli al Polo Nord non serve assolutamente a nulla. Per cui ci sono vari metodi, e qua anche qui internet è stra interessante, perché ci sono proprio dei software che ti aiutano a capire, dei piccoli psicanalisti digitali, no? Per capire se sei realmente uno startup. Però il punto è quello che dici tu: c'è bisogno di quest'idea, per cui una piccola indagine di mercato. Una indagine di mercato straordinaria è quella che si fa col web, per cui io butto la mia idea e vedo se qualcuno risponde. Cioè, il internet è diventato un acquario straordinario dove sperimentare le idee. Se funziona, te lo dicono loro. Una volta che hai capito che c'è questa esigenza, e lo puoi capire semplicemente raccontandola, a questo punto c'è il processo più difficile: la ingegnerizzo, certo. Ci metto del valore aggiunto, la rendo mia, la rendo non copiabile. Cosa fondamentale, occhio ragazzi, perché di persone con le spalle più grosse delle vostre ce ne sono, e sono a caccia di idee come voi. Per cui voi, una volta che avete capito che c'è bisogno di questo servizio, dovete renderlo non copiabile e unico. E questo è il difficile. Intanto Davide da Verona scrive: il mio sogno è un motore di ricerca di divulgazione di news, qua cosa complicatissima, il cui algoritmo filtri i risultati in base alla serietà delle fonti, attendibilità e credibilità, anziché come attualmente accade con Google, il più gigantesco motore di ricerca esistente, su criteri solamente commerciali. Luca, anche questo è un tema che tu conosci molto bene. Tema delle bufale è stra interessante nel senso che già su Facebook era venuto fuori a un certo punto che, guarda caso, venivano solo selezionati nella nostra timeline delle notizie non repubblicane, democratiche. Il tema è centrale: chi seleziona le notizie e quali sono le notizie migliori? Se tu vai su Google, di solito ci sono dei titoli a chiappa clic, no? Ecco l'uovo più grosso del mondo. Dentro non c'è l'uovo più grosso del mondo, però uno ha cliccato. Certo. Stanno lavorando tutti a questi software, per cui questo è il problema. Ci stiamo lavorando anche noi. Benissimo, e noi torneremo sul tema delle startup, perché qualche indicazione è utile, speriamo di averla data. Questa mattina in molti avete partecipato alla nostra raccolta di sogni nel cassetto. Luca, grazie, guarisciti per cortesia. E torna presto a trovarci. Io vi racconto velocissimamente la borsa, poi andiamo all'approfondimento di cuore. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Per alcuni sarà stata piccola, nel senso che è passata troppo velocemente, per altri dovrebbero essere circa 9 milioni, sono gli italiani che soffrono di insonnia, sarà stata interminabile. Allora, e la domandona di oggi è: come avete dormito questa notte? Nel weekend dormite meglio che rispetto al resto della settimana? 800 24 00 24, ci sono novità sul sonno e sulla qualità del nostro sonno. Ne parliamo oggi con il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornato, e torna con noi il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore di Super Salute e la dieta Super Salute. Buongiorno anche a lei, dottor Gualerzi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Intanto, anche il sonno, Deborah, come gli aggiornamenti dei mercati, ha i suoi alti e i suoi bassi. E quindi chiediamo ai nostri amici da casa di raccontarci come avete dormito questa notte, ma anche come avete dormito in passato, come è cambiato il vostro sonno negli anni. 800 24 00 24, ma è ancora attiva la proposta che abbiamo fatto. Brava. Nella prima parte della trasmissione. Grazie. Sì, se volete partecipare al Forum Nazionale dell'Imprenditoria Giovanile e Femminile che si svolge qui al Sole 24 Ore giovedì, continuate a inviarci il vostro sogno del cassetto di startup. Ne stanno arrivando tantissimi e c'è chi ci dà anche qualche idea su quelli che possono essere i settori ideali sui quali lanciarsi con delle iniziative. C'è Gerardo, che salutiamo perché conosciamo, che ci racconta del settore immobiliare. Alcune donne, Nicoletta, questo è un tema molto interessante, perché a me cucire piacerebbe tanto e non lo sono capace, addirittura insomma di riprendere anche in mano certe professionalità, per cui insomma le idee spaziano da un mondo ad un altro, e a nostro insindacabile giudizio sceglieremo le 10 idee vincenti da far partecipare appunto giovedì a questa iniziativa del è una Sole. Palestra, come ci anticipava il nostro collega Luca Tremolada, anche per i nostri neuroni. Allora qua chiamo in causa il dottor Lino Nobili come neurologo. La creatività è una bella, pensare a sviluppare nuove idee, a costruirle, dottor Nobili, è sicuramente una bella palestra per il nostro cervello. Ci sono persone che sono creative, altre che lo sono un po' meno, ma possono imparare o provare a diventarlo, dottore. Assolutamente sì, è un esercizio fondamentale per i nostri lobi frontali, per imparare a diventare sempre più creativi. La ginnastica del cervello funziona molto bene come quella fisica, E quindi iniziate, anzi continuate a scaldarvi. Intanto, dottor Nobili, torniamo al tema di questa ultima parte di cuore denari, il sonno. Ogni età ha il suo sonno. Penso ai bambini piccoli che hanno bisogno di tante ore di sonno, e penso agli anziani a cui bastano veramente poche ore forse sono costretti a dormire poche ore perché poi il sonno non riescono più a riacchiapparlo. Sì, sì, è proprio così, il sonno segue perfettamente l'evoluzione nel bene e nel male, quello che succede all'evoluzione dei nostri neuroni all'interno del cervello, quindi e anche a come si sviluppa tutti i centri che lo regolano, quindi da bambini abbiamo un sonno molto più, specialmente molto piccoli, chiamato quasi polifasico, si dorme sia di giorno che di notte, poi piano piano si riduce anche la quantità di sonno nel corso della vita e progressivamente quando si diventa anziani purtroppo il sonno perde un po' anche la sua forza, diventa più fragile e si ritorna a ridormire anche un pochino di più nel pomeriggio e quindi si assomiglia un pochino più al sonno dei bambini. Abbiamo coinvolto il dottor Gualerzi e il dottor Nobili, quindi un esperto di sonno ed un esperto anche di alimentazione, prevenzione e stile di vita. Perché? Perché volevamo commentare una ricerca che sottolinea quanto il dormire poco e male possa influire anche sul nostro giro vita. Sono delle conferme che arrivano da una ricerca britannica secondo cui perdere ore di sonno porta a mangiare di più già il giorno dopo, con effetti misurabili in termini di calorie ingerite. Dottor Gualerzi, le calorie è un concetto ormai che è stato superato, ma torna in numerose ricerche, quindi tra tutti gli svantaggi che chi non riesce a dormire ha, c'è anche quello di un aumento della circonferenza della pancia. Lei che cosa ne pensa? Sì, sì, penso che le calorie rendano comunque sempre molto bene l'idea e diciamo che esiste un circolo vizioso, quasi un gatto che si morde la coda fra le calorie e il sonno. Possiamo dire più calorie meno sonno, ma anche meno sonno più calorie. Quando dormiamo peggio, dormiamo di meno, ci svegliamo alla mattina e non discriminiamo bene per la scelta del cibo. Sono stati fatti proprio degli studi dove vediamo che siamo veramente più attratti dal cibo ipercalorico, quindi quando dormiamo poco non riusciamo a discriminare, mangiamo cibo ipercalorico. In realtà tutto si riduce a livello di ormoni, perché quando dormiamo poco aumenta sostanzialmente la grelina, che è l'ormone che ci fa venire fame, e diminuisce la leptina, che è l'ormone che ci dà la sazietà, quasi come una bilancia, sali e scendi, e quando dormiamo poco, quindi cerchiamo e abbiamo più appetito, mangiando di più, spesso mangiamo cibi più calorici che ci infiammano di più, e qui entra in gioco il cardiologo, perché quando siamo più infiammati ci ammaliamo, comunque siamo più propensi ad ammalarci, e una delle malattie, anche se oggi non è una vera malattia ancora riconosciuta, ma è appunto mettere cibo a livello, mettere grasso a livello dell'addome, formando quel nuovo organo che si chiama grasso viscerale, che ha delle azioni lente ma comunque tossiche sull'organismo. Quindi dormire poco può far venire la pancia proprio per tutte queste dinamiche complesse. Tra l'altro, dottor Nobili, anche il comportamento, il modo, il tempo in cui noi assumiamo la cena, ad esempio serale, può interferire sulla qualità del nostro sonno. Chi solitamente mangia tardi dorme male, questo ce lo suggerisce anche il buon senso, ma l'avete studiato anche voi. Oltre alle cose che condivido assolutamente del collega cardiologo, è che spesso poi chi dorme male tende a mangiare di più calorie, tende a mangiarle anche di notte, quindi squilibra anche i ritmi dell'alimentazione, quindi altera i ritmi biologici dell'alimentazione rispetto a quello che è il normale anche ritmo del sonno, e questo sfasamento di ritmi alimentazione ritmo sonno ha un effetto anche negativo sul ruolo del sonno sul nostro cervello. Sono degli studi che dimostrano che se noi mangiamo in maniera irregolare, tendiamo a mangiare di notte, per esempio l'apprendimento, che di solito si verifica bene durante il sonno, non funziona così bene. E sembra che cenare troppo tardi possa mandare anche in tilt la nostra memoria. Parlavamo di creatività e abbiamo così stimolato i nostri ascoltatori a raccontarci il loro progetto per partecipare a questa bella iniziativa che si terrà al Sole 24 Ore, ma vogliamo parlare anche di memoria, che sembra in qualche modo messa in difficoltà da una cena, da assumere una cena nelle ore tarde della serata. È così, dottor Nobili? Sì, sì, sì, proprio come dicevo, noi un ruolo fondamentale del sonno, ad esempio, è proprio quello che diceva, la memoria, il trasferimento delle memorie da alcune strutture del cervello, quella dell'ippocampo, la memoria a breve termine, durante il sonno viene trasferita la memoria nei lobi frontali e quindi la memoria diventa più a lungo termine. Ci sono degli studi condotti proprio anche su animali, ci sono delle esperienze anche sull'uomo, in cui se noi alteriamo il ritmo della nostra alimentazione mangiando di notte, anche senza alterare di per sé la durata del sonno, alteriamo questo processo di trasferimento di informazione dall'ippocampo al lobo frontale, quindi c'è una ripercussione negativa anche sulla memoria. 800 24 00 24 se volete intervenire. Dottor Gualerzi, non ci sono cibi magici che ci fanno dormire, ma sicuramente qualche indicazione ai nostri ascoltatori lei è in grado di darla, di suggerire. Sì, sicuramente sì, nel senso che non ci sono cibi magici, ma ci sono dei cibi che possono facilitare il sonno e purtroppo ci sono anche molti falsi miti o falsi amici, diciamo, perché sicuramente i cibi che poi alla lunga ci fanno male sono anche quelli che ci danno più facilmente l'abbiocco, no? Come si dice, ci fanno addormentare prima, però sono anche quelli che ci fanno dormire peggio durante la notte, quindi dobbiamo essere diffidenti verso quei cibi che ci danno immediatamente quel senso di sonnolenza appena li abbiamo consumati, come i cibi ad alto indice glicemico, questo per azione dell'insulina che si innalza e ci dà quella sorta di torpore tipica anche nel post-prandium. Se li mangiamo alla sera o ad esempio beviamo molto vino, abbiamo più sonnolenza proprio per queste dinamiche ormonali, ma ben presto questo effetto svanisce e rischia di farci dormire male durante la notte. Ecco che cibi che rilasciano più lentamente gli zuccheri, ma direi, mi piacerebbe dire proprio ancora più semplicemente, mangiare poco alla sera aiuta ad essere, diciamo, più abili nel prendere sonno, ma anche nel mantenere il sonno. E per chiudere, vorrei dire che quando andiamo a letto e ci dobbiamo alzare, come diceva prima il dottore, diciamo perché sentiamo ancora la fame, è proprio sempre per le stesse dinamiche, cioè mangiamo cibo che apparentemente ci sazia, ma ben presto finisce di dare la sua azione nutritiva e quindi l'organismo ci richiama di mettere calorie in un circolo vizioso che spezza la notte, aumenta il sistema nervoso vegetativo e quindi ci fa stare in allerta. Chiudo per dire che molto spesso le persone che non sanno, che non si addormentano, noi gli consigliamo una minima quantità di zuccheri serali. Oggi va molto di moda la sera mangiare una cena dissociata, solamente le proteine. Un po' di zuccheri complessi alla sera aiutano molto a produrre l'ormone che sappiamo, quello del benessere, della serotonina, che sconfigge il cortisolo, e quindi in realtà quando aumentiamo un po' la serotonina ci addormentiamo meglio. Quindi sì, pasti leggeri, sì agli zuccheri complessi per stimolare questo sistema. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme, perché tra le cause di una cattiva qualità del sonno potrebbe esserci anche un certo tipo di luce. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari. A memoria ti saprei dire quante ciglia hai, qual è il loro suono quando chiudi gli occhi. Torniamo insieme oggi, parliamo di sonno. Sappiamo che il nutrimento della nostra salute ha tante funzioni, anche quello di spazzino delle tossine che accumuliamo durante il giorno. Dottor Nobili. Questa è una cosa di questi ultimi anni molto importante. È stato scoperto un sistema, diciamo quasi linfatico, che permette il drenaggio di sostanze tossiche, e questo drenaggio avverrebbe nella maggior parte proprio durante il sonno, in particolare il drenaggio di quelle sostanze come la beta amiloide, sostanze che si accumulano con l'invecchiamento, che sono anche quando si accumulano in eccesso la causa ad esempio dei processi degenerativi come nelle demenze. Quindi ha un effetto anche di pulizia per quelle sostanze che possono alterare le funzioni cognitive di un individuo. Dottor Nobili, ne parlavamo fuori onda, conoscendo tutte le buone funzioni, le buone cose che fa il sonno, e quindi viene da sottolineare e da parlarne, ma dato che ci sono tanti italiani che non dormono, si è anche un po' imbarazzati, perché chi non dorme certo che vorrebbe dormire, ancora si sente dire, ecco, il sonno aiuta la memoria, ti mantiene in forma, spazza via le tossine. Dottor Nobili, e qua insomma vogliamo dare anche un po' di indicazioni alle persone che invece non hanno una buona qualità di sonno, che tutte le sere che arrivano e dicono che speriamo almeno di dormire 3 ore filate, di cercare di avere una qualità migliore. Dottor Nobili, intanto quello che bisogna pensare è sono persone che pensano di dormire molto male, poi quando gli si chiede come stanno di giorno stanno bene, quindi queste stanno bene nel senso non hanno colpi di sonno, riescono comunque a fare il loro lavoro, essere concentrate, quindi vuol dire che quel loro sonno, magari prodotto non nella miglior modo, è in grado di svolgere quelle funzioni anche di quelle che abbiamo parlato, quindi non vogliamo spaventare nessuno. Allora aspetti lì, perché lei ha fatto la descrizione puntuale di Luciano, che ci viene segnalato dalla regia. Luciano, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Lucca. Buongiorno. Ma il dottor Nobili praticamente ha descritto lei, che dorme molto poco, ma è gagliardo di giorno. Sì, diciamo, io ho 76 anni, faccio ancora attività sportiva, però dormo pochissimo. A volte anche nottate completamente in bianco, però il giorno non ho fatica. Vado avanti uguali, avrò i miei acciac, devo fare una cataratta, questa è un'altra cosa. Vabbè, ma questo è sul sonno. No, ecco, non so, non ho mai preso nulla, se mi può consigliare qualcosa, perché di stare così, Luciano. Credo che il dottor Nobile e il dottor Gualerzi le raccomandino di mantenersi così com'è, dottor Nobili. Ma sì, ci sono, come ne abbiamo parlato anche più volte noi, le persone che sono dei corti dormitori, ad esempio, sono in grado di concentrare il loro sonno buono anche in poche ore, sono in grado di resistere molto meglio agli effetti della deprivazione. Su questi effetti del sonno, sia positivi che negativi, conta molto anche il nostro patrimonio genetico, è una cosa evidente anche di questo degli ultimi anni, quindi ci sono ancora aspetti sicuramente che non sappiamo. In linea di massima è meglio cercare di dormire le ore abituali, le ore medie, che si dice siano 7 ore, ma ci sono delle persone che possono star bene anche dormendo meno, questo è sicuro. L'importante però è sempre, arriva un'altra ricerca da cui abbiamo preso spunto per la puntata di oggi, che ci dice: tenete fuori dalla vostra stanza tutti i dispositivi tecnologici, quindi smartphone, telefonini, tablet e le loro lucine, dottor Nobili. Esatto, perché possiamo avere delle persone che dormono di meno, ma quello che è fondamentale è fare in modo che questo sonno sia il più fisiologico possibile. E quello che noi sappiamo è che delle lucine anche minime, come quelle del cellulare o del computer, specialmente quelle che contengono luce blu, possono disturbare anche nel nostro sonno, anche avendo gli occhi chiusi, la produzione di melatonina. E questo quindi altera poi la produzione di sonno profondo, tutto quel sonno che ha quel valore che abbiamo detto su varie funzioni, da quelle cognitive e altro, ecco. Quindi è importante fare in modo che non ci siano, e poi non solo le lucine, purtroppo, questo me ne accorgo con mio figlio spesso entrando nella stanza, se vedo, sento che vibra, ci sono i messaggini, c'è lo stimolo anche sonoro, anche piccolo, durante il sonno comunque può disturbarlo, può frammentare il sonno e la continuità, sono tutte cose minime, ma che nel caso specialmente di una persona che ha un sonno un po' più fragile, possono giocare un ruolo rilevante. Allora, per il dottor Gualerzi invece un appunto che arriva da Francesco da Roma, che ci scrive: da come state affrontando l'argomento sembra che la nostra alimentazione e il nostro stile di vita debbano essere regolati come in caserma. No, scusate, per vivere sereno devo essere libero di scegliere il mio stile di vita, ovviamente senza eccesso. E questo fa il paio con Marco, che ci scrive: a me succede il contrario, se mangio poco, non mangio affatto, non riesco ad addormentarmi per la fame, oppure mi sveglio durante la notte per mangiare. Anche questo è molto diffuso. Cioè, la pancia vuota poi alla fine ti chiama. Dottor Gualerzi, il tutto in 2 minutini scarsi. Sì, come diceva il dottor Nobili, in realtà non esiste una regola e dipende anche dalla genetica, dipende dalle abitudini e dipende anche obiettivamente da come uno si sente, quindi nessuno vuole regimentare troppo. È logico che ci sono delle regole che vanno un pochino seguite, perché queste sono state dimostrate a migliorare la qualità della vita e anche la quantità della vita. E poi siamo liberi, se uno si trova certo, noi siamo qua non per imporre, ma per suggerire. Se poi uno vede che adottando una certa tecnica o un certo tipo di alimentazione riposa bene, non ha deficit di sonno durante il giorno, non ha facili, diciamo, addormentamenti intanto che lavora o intanto che diciamo fa delle altre attività, ecco, diciamo, forse la regola è giusta. Diciamo che non esiste solo il sonno, quindi la corretta alimentazione non è solamente funzione per avere una corretta notte, il fatto che mangiare bene aiuta a produrre, a regolarizzare l'apparato cardiovascolare e metabolico e nel prevenire le malattie. Quindi ognuno c'ha un po' il suo sistema, sicuramente esistono dei criteri che valgono per tutti e quindi è questo che consigliamo di seguire, non solo per dormire bene ma per vivere in forma e in modo, diciamo, pieno la propria vita. E poi ricordatevi che abbiamo aperto con una ricerca che sottolinea che non bisogna preoccuparsi troppo per la propria salute, perché sennò il cuore ne rischia, insomma non dobbiamo preoccuparci o lamentarci di gamba buona, ma sicuramente stare attenti ai segnali che il corpo ci manda può essere un aiuto per aiutarlo a vivere meglio. Grazie al dottor Nobili, grazie al dottor Gualerzi, noi facciamo fagotto e andiamo. Però torniamo domani, sarà un fagottino. Fagottino, buona giornata a tutti.